Che sente tutto ciò che per te è non sono io. Questo drink mi basta, sono vivo a parte me, e ti chiedo resta, mi sembra passato il tempo di remare contro, il mare si perde. Non siamo noi. Per te forse non ti basterò, ma il vestito è giusto. Passato il vento, il cielo non mente, e ciò che si perde forse siamo noi.